Eccolo lì. Eccomi. No? Sì, no? Eccoti. Buongiorno. Salve a tutti. È con grande piacere che annuncio e invito tutti a seguire questo progetto, perché davvero è qualcosa che creerà dei segnali deboli, e oltre ad osservarli sarebbe molto bello partecipare alla creazione di questi segnali deboli di cui abbiamo tanto parlato. Comunque sì, confermo che ho impegnato alcuni oggetti personali per essere il numero uno come sostenitore. Sono sicuro comunque che appena questa iniziativa raggiungerà come informativa le persone, e molte persone si saranno entusiaste di partecipare a questa avventura.